Capitolo 160. La prima riunione in Aulide. Quando Paride decise di fare di Elena sua moglie, non pensava di dover pagare a caro prezzo questo oltraggio all'ospitalità di Menelao. Erano stati forse costretti alla resa dei conti cretesi per aver rapito Europa ai Fenici in nome di Zeus, o gli Argonauti per aver rapito Medea dalla Colchide, o gli Ateniesi per aver rapito Arianna da Creta, o i Traci per aver rapito l'Ateniese Orizia. In questo caso, tuttavia, le cose andarono diversamente. Era mandò Iride a Creta con la notizia del ratto, e Menelao si precipitò a Micene, dove supplicò il fratello Agamennone di chiamare subito gli uomini validi alle armi e di guidare un esercito contro Troia. Agamennone acconsentì a prendere tali provvedimenti soltanto se i messaggeri che avrebbe inviato a Troia per chiedere la restituzione di Elena e un compenso per l'offesa recata a Menelao fossero ritornati a mani vuote. Priamo rispose che non sapeva nulla di quella faccenda. Paride, infatti, stava ancora navigando nel sud e chiese quale soddisfazione era stata data ai suoi araldi per il ratto di Esione. Menelao allora inviò messaggeri a tutti i principi che avevano pronunciato il solenne giuramento sulle carni del cavallo sacrificato, ricordando a ciascuno di loro che l'azione disonesta di Paride era un affronto per l'intera Grecia. A meno che il crimine non fosse punito in modo esemplare, nessuno avrebbe potuto essere sicuro dell'incolumità della propria moglie. Menelao mandò a chiamare Nestore di Pilo e insieme viaggiarono per la Grecia, convocando i capi della spedizione. In seguito, accompagnato da Menelao e da Palamede, figlio di Nauplio, Agamennone si recò ad Itaca, dove gli fu assai difficile persuadere Odisseo a unirsi alla spedizione. Codesto Odisseo, benché fosse creduto figlio di Laerte, era frutto degli amori segreti di Sisifo e di Anticlea, figlia del famoso ladro Autolico. Poco dopo la nascita del bimbo, Autolico giunse a Itaca e la sera, al termine del banchetto, prese il piccolo sulle ginocchia. «Dagli un nome, o padre», disse Anticlea. Autolico rispose: «Nel corso della mia vita mi sono messo in urto con molti principi e chiamerò dunque il mio nipote Odisseo, che significa il rabbioso, perché sarà la vittima delle mie antiche inimicizie. Tuttavia, se mai salirà al monte Parnaso per rimproverarmi, gli cederò parte dei miei possedimenti e placherò la sua ira». Non appena raggiunta la maturità, Odisseo si recò a far visita ad Autolico, ma, mentre cacciava in compagnia degli zii, fu ferito alla coscia da un cinghiale e si portò la cicatrice di quella ferita nella tomba. Autolico, tuttavia, ebbe gran cura di lui e lo rimandò a Itaca con i doni promessi. Odisseo sposò Penelope, figlia di Icario e della Naiade Peribea. Alcuni dicono che le nozze furono predisposte dal fratello di Icario, Tindario. Questi, infatti, fece in modo che Odisseo vincesse una gara di corsa tra i pretendenti in una via di Sparta detta Afeta. Penelope, dapprima chiamata Arnea o Arnacia, era stata gettata in mare da Nauplio per ordine di suo padre, ma uno stormo di anatre dalle piume striate di rosso la tenne a galla, la nutrì e la portò fino alla riva più vicina. Impressionati da questo prodigio, Icario e Peribea si ricredettero e Arnea ebbe il nuovo nome di Penelope, che significa anatra. Dopo aver maritato Penelope a Odisseo, Icario lo pregò di rimanere a Sparta. Odisseo rifiutò e Icario allora inseguì il cocchio sul quale viaggiava la coppia di sposi, supplicando Penelope di tornare indietro. Odisseo, che aveva frattanto perduto la pazienza, si volse e disse a Penelope: «O tu vieni a Itaca di tua spontanea volontà, oppure, se mi preferisci tuo padre, rimani qui con lui, senza di me». Per tutta risposta Penelope abbassò il velo che le copriva il capo e Icario, resosi conto che Odisseo agiva con suo pieno diritto, lasciò partire la figlia e innalzò una statua alla Modestia, che ancora si vede a circa 4 miglia dalla città di Sparta, nel luogo dove l'incidente si verificò. Ora Odisseo era stato ammonito da un oracolo: «Se andrai a Troia, tornerai in patria dopo 20 anni, solo e in miseria». Si finse dunque pazzo e Agamennone, Menelao e Palamede lo trovarono con un cappello di contadino in testa, a forma di mezzo uovo, che arava un campo, pungolando un bue e un asino aggiogati assieme e gettandosi dietro le spalle manciate di sale. Quando egli finse di non riconoscere i suoi illustri ospiti, Palamede strappò il piccolo Telemaco dalle braccia della madre e lo posò per terra dinanzi alle zampe degli animali aggiogati all'aratro. Odisseo subito tirò le redini per non uccidere il suo unico figlio e, dimostrando così d'essere sano di mente, fu costretto a partecipare alla spedizione. Menelao e Odisseo si unirono allora all'araldo di Agamennone Taltibio e raggiunsero Cipro, dove re Cinira, un altro dei pretendenti di Elena, offrì loro una corazza perché la portassero in dono ad Agamennone e giurò di contribuire alla guerra con 50 navi. Mantenne la sua promessa, ma allestì una sola nave e la accompagnò col dono di 49 navicelle di terracotta, con bambole per equipaggio, che il capitano mise in mare avvicinandosi alle coste della Grecia. Invocato da Agamennone perché punisse tale frode, si dice che Apollo uccidesse Cinira, al che le sue 50 figlie si gettarono in mare e furono tramutate in alcioni. Ma in verità Cinira si uccise quando si accorse di aver commesso incesto con sua figlia Smirne. Calcante, sacerdote di Apollo, un troiano rinnegato, aveva predetto che Troia non sarebbe caduta senza l'aiuto del giovane Achille, il settimo figlio di Peleo. Teti, la madre di Achille, aveva ucciso i fratelli di lui bruciando nelle parti mortali, e anche Achille sarebbe perito allo stesso modo se Peleo non l'avesse strappato alle fiamme, sostituendo la sua caviglia carbonizzata con un'altra presa dallo scheletro dissotterrato del gigante Damiso. Ma altri dicono che Teti lo tuffò nello Stige, in modo che soltanto il tallone per il quale lo reggeva non divenne immortale. Quando Teti abbandonò Peleo, questi affidò il bimbo al centauro Chirone, che lo allevò sul monte Peleo, nutrendolo con midolla di leone e di cinghiale selvatico e grasso d'orso perché crescesse coraggioso e forte, o secondo altri con miele e midollo di cerbiatto perché fosse agile e veloce. Chirone inoltre lo istruì nell'arte di cavalcare, cacciare, suonare il flauto e curare le ferite. La musa Calliope poi gli insegnò a cantare nei banchetti. A 6 anni di età Achille uccise il suo primo cinghiale e da quel giorno portò sempre alla caverna di Chirone le carcasse sanguinanti di cinghiali o leoni. Atena e Artemide osservavano ammirate le prodezze di quel biondo fanciullo così agile nella corsa che poteva forzare i cervi senza l'aiuto dei cani. Ora Teti sapeva che suo figlio non sarebbe mai tornato da Troia se si fosse unito alla spedizione dei Greci, poiché era destino che egli morisse giovane e coperto di gloria, oppure vivesse oscuramente e a lungo. Lo travestì dunque da donna e lo affidò a Licomede, re di Sciro, nel cui palazzo Achille visse sotto il nome di Cercisera, essa o Pirra, ed ebbe rapporti amorosi con la figlia di Licomede, Deidamia, che lo fece padre di Pirro, in seguito chiamato Neottolemo, ma altri dicono che Neottolemo era figlio di Achille e di Ifigenia. A Odisseo, Nestore e Aiace toccò l'incarico di ricercare Achille a Sciro, perché correva voce che egli fosse nascosto laggiù. Licomede li lasciò frugare nel palazzo e non avrebbero mai trovato Achille se Odisseo non avesse posato nella sala un mucchio di doni, per lo più gioielli, cinture, manti ricamati e così via, pregando alle fanciulle di corte di fare la loro scelta. Poi Odisseo ordinò che squillassero le trombe e che all'esterno si udisse un gran clangore di armi. Ed ecco che una delle fanciulle si denudò il petto e diede piglio a uno scudo e a una lancia che si trovavano tra i doni. Era Achille che promise di guidare i suoi mirmidoni a Troia. Alcuni autorevoli autori ridono di questa storia fantasiosa e dicono che Nestore e Odisseo giunsero a Fitia per reclutare truppe e furono benevolmente accolti da Peleo, che senza indugio concesse ad Achille, allora quindicenne, di unirsi alla spedizione sotto la tutela di Fenice, figlio di Amintore di Cleobula, e che Teti gli donò un magnifico cofano scolpito, zeppo di tuniche, mantelli e folti tappeti per la sua tenda. Codesto Fenice fu accusato da Ftia, concubina di suo padre, di aver tentato di violarla. Amintora fece accecare Fenice e al tempo stesso lo maledisse perché non potesse avere mai figli. Fosse vera o falsa l'accusa di Ftia, Fenice figli non ne ebbe mai. Tuttavia si rifugiò nella città di Ftia, dove Peleo non soltanto indusse Chirone a ridonargli la vista, ma lo elesse re dei vicini Dolopi. Fenice allora si offrì di custodire il giovane Achille, che gli si affezionò profondamente. Alcuni tuttavia dicono che la cecità di Fenice va intesa metaforicamente come impotenza e che Peleo lo liberò da questa maledizione facendo di lui il secondo padre di Achille. Achille aveva un compagno inseparabile, suo cugino Patroclo, che era maggiore di lui per età, ma non altrettanto forte né veloce né nobile di nascita. Alcuni dicono che il padre di Patroclo fosse Menezia di Opunte oppure Eaco e sua madre Stenela, figlia di Acasto oppure Piope, figlia di Ferete oppure Polimela, figlia di Peleo oppure Filamela, figlia di Attore. Egli si rifugiò alla corte di Peleo dopo aver ucciso il figlio di Anfidamante Clitonimo oppure Eanete nel corso di una lite sorta a proposito di una partita a dadi. Quando la flotta greca fu riunita in Auride, una spiaggia ben protetta nello stretto euboico, giunsero messaggeri da Creta per annunciare che il loro re Idomena, figlio di Deucalione, avrebbe guidato 100 navi a Troia se Agamennone avesse acconsentito a dividere con lui il supremo comando della spedizione. E le sue condizioni furono accettate. Idomeneo, che aveva un tempo fatto parte della schiera dei pretendenti di Elena ed era famoso per la sua avvenenza, portò con sé come luogotenente Merione, figlio di Molo, uno dei bastardi di Minosse. Egli aveva dipinto un gallo sullo scudo, poiché si vantava di discendere da Elio e calzava un elmo adorno delle zanne di un cinghiale. Nella spedizione si fusero le forze cretesi ed elleniche. L'esercito ellenico era comandato da Agamennone e dai suoi luogotenenti Odisseo, Palamede e Diomede. La flotta ellenica era comandata da Achille, con l'aiuto del grande Aiace e di Fenice. Tra tutti i suoi consiglieri, Agamennone riponeva la maggiore fiducia in Nestore, re di Pilo, la cui saggezza era proverbiale e la cui eloquenza era più dolce del miele. Egli aveva governato su 3 generazioni di uomini, pur rimanendo, nonostante l'età, valente guerriero ed era l'unico tra i capi greci che superasse il re di Atene Menesteo nell'arte di manovrare la cavalleria e la fanteria. Odisseo dava prova di pari buon senso e ambedue consigliarono gli stessi provvedimenti in caso di pericolo per assicurare il successo della spedizione. Il grande Aiace, figlio di Telamone e di Peribea, veniva da Salamina. Era secondo soltanto ad Achille per valore, forza e bellezza. Sovrastava con la testa e le spalle i più alti fra i guerrieri greci e reggeva un enorme scudo fatto con le pelli di 7 tori. Il suo corpo, grazie a un prodigio compiuto da Eracle, era invulnerabile, salvo l'ascella o altri dicono il collo. Quando Aiace salì a bordo della nave, Telamone si congedò da lui con questo consiglio: «Mira alla vittoria, con l'aiuto degli dei». E Aiace gli rispose tracotante: «Con l'aiuto degli dèi qualsiasi codardo potrebbe coprirsi di gloria. La vittoria me la conquisterò da solo». Con questa e altre vanterie attirò su di sé l'ira divina. In una certa occasione, quando Atena lo incitava alla battaglia, gridò: «Allontanati, o dea, e vai a incoraggiare i greci miei compagni, poiché dove io mi trovo il nemico non riuscirà mai a far breccia». Il fratellastro di Aiace, Teucro, figlio bastardo di Telamone e di Esione, il migliore arciere di tutta la Grecia, usava combattere dietro lo scudo di Aiace e se mai gli toccava allontanarsi, tornava subito a mettersi al riparo come un bambino corre dalla madre. Il piccolo Aiace di Locri, figlio di Oileo e di Eriopide, benché basso di statura, superava tutti i greci per la sua abilità nello scagliare la lancia e, subito dopo Achille, era il più veloce nella corsa. Era il terzo membro della compagnia del grande Aiace e lo si riconosceva facilmente per il suo corsetto di lino bianco e per il serpente addomesticato più lungo di un uomo che lo seguiva ovunque come un cane. Il suo fratellastro Medone, figlio bastardo di Oileo e della ninfa Rene, veniva da Filace, dove era stato esiliato per aver ucciso il fratello di Eriopide. Diomede, figlio di Tidio e di Deifila, giunse da Argo accompagnato da 2 degli epigoni, e cioè Stenelo, figlio di Capaneo, ed Eurialo, l'argonauta, figlio di Mecisteo. Egli aveva amato profondamente Elena e considerava il suo ratto un affronto personale. Tlepolemo, l'argivo, figlio di Eracle, portò 9 navi da Rodi. Prima di salpare da Aulide, la flotta greca imbarcò provviste di grano, vino ed altre cibarie offerte da Anio, re di Delo, che Apollo aveva segretamente generato in Reo, figlia di Stafilo e di Crisotemi. Quando si accorse che Reo era incinta, Stafilo la chiuse in un cofano che abbandonò alle onde marine. Spinta dalle correnti sulle spiagge dell'Eubea, Reo diede alla luce un bimbo che chiamò Anio, in ricordo delle pene sofferte per lui, e Apollo in seguito lo elesse suo sacerdote a Delo. Altri dicono che il cofano in cui era rinchiusa Reo approdò direttamente a Delo. Da sua moglie Dorippa, Anio aveva avuto tre figlie, Elaide, Spermo ed Eno, che sono chiamate le vignaiole, e un figlio Androne, re di Andro, cui Apollo insegnò l'arte mantica. Poiché era anche egli sacerdote di Apollo, Anio dedicò le vignaiole a Dioniso, pensando fosse bene avere due dei come protettori della famiglia. In cambio Dioniso promise che tutto ciò che Elaide toccasse invocando il suo aiuto si sarebbe tramutato in olio, tutto ciò che toccasse Spermo si sarebbe tramutato in grano e tutto ciò che toccasse Eno si sarebbe tramutato in vino. Così Anio poté fornire abbondanti provviste ai greci. Agamennone tuttavia non era soddisfatto. Mandò Menelao e Odisseo a Delo, dove essi chiesero ad Anio se le vignaiole potevano partecipare alla spedizione. Anio rifiutò, dicendo a Menelao che per volere degli dei Troia sarebbe caduta soltanto dopo 10 anni. «Perché non vi fermate a Delo nel frattempo?» propose con calore ospitale. «Le mie figliole vi forniranno cibo e vino fino al 10° anno e poi vi accompagneranno a Troia se necessario». Ma poiché Agamennone aveva ordinato «Portatemi le ragazze, che Anio acconsenta o no», Odisseo incatenò le vignaiole e le caricò sulla nave. Quando poi esse fuggirono, due si rifugiarono in Eubea, la terza ad Andro, Agamennone mandò delle navi a inseguirle e minacciò la guerra se non si fossero arrese. Si arresero infatti tutte e tre, ma invocarono Dioniso che le trasformò in colombe, e da quel giorno le colombe sono sacre a Delo. In Aulide, mentre Agamennone stava sacrificando a Zeus e ad Apollo, un serpente azzurro con macchie rosso sangue sulla schiena guizzò fuori dalla pietra dell'altare e si diresse verso un fronzuto platano che sorgeva lì accanto. Sul ramo più alto vi era un nido di passeri con 8 uccelletti e la loro madre. Il serpente li divorò uno dopo l'altro e infine, arrotolato com'era attorno al ramo, fu trasformato in pietra da Zeus. Calcante spiegò quel portento confermando la profezia di Anio. 9 anni dovevano passare prima che Troia cadesse, ma sarebbe caduta senz'altro. Zeus inoltre rincuorò tutti con lo scoppio di una folgore a destra, mentre la flotta si disponeva a salpare. Secondo alcuni, i greci lasciarono l'Aulide un mese dopo che Agamennone ebbe indotto Odisseo a unirsi alla spedizione e Calcante li pilotò verso Troia grazie alla sua seconda vista. Altri dicono che Enone mandò suo figlio Corito perché facesse loro da guida. Ma secondo una terza più accreditata versione, la flotta greca non aveva pilota e giunse per errore in Misia, dove i guerrieri sbarcarono e cominciarono a devastare il paese, credendo di essere nella Troade. Re Telefo li ricacciò sulle loro navi e uccise il valoroso Tersandro, figlio del tebano Polinice, l'unico che avesse sostenuto l'attacco nemico. Ma poi ecco accorrere Achille Patroclo, e al vederli Telefo voltò le spalle e fuggì lungo le rive del fiume Caico. Ora i greci avevano sacrificato a Dioniso in Aulide, mentre i Misi l'avevano trascurato. In punizione Telefo fu avviluppato da una vite che sorse improvvisamente dal suolo e Achille lo ferì alla coscia con la famosa lancia che egli solo aveva la forza di reggere, dono di Chirone al padre suo Peleo. Tersandro fu sepolto a Elea in Misia, dove ora sorge il santuario eroico. Il comando delle truppe beote passò dapprima a Penelo e in seguito, quando questi fu ucciso da Euripilo figlio di Telefo, a Tisameno figlio di Tersandro, che non aveva ancora raggiunto la maggiore età alla morte di suo padre. Ma alcuni sostengono che Tersandro sopravvisse e fu uno di coloro che si nascosero nel cavallo di legno. Dopo aver bagnato le loro ferite nelle acque calde della fonte Ionia presso Smirne, fonte chiamata Bagni di Agamennone, I greci ripresero il mare, ma furono colti da una violenta tempesta sollevata da Era, e ciascun capitano fece vela verso la propria patria. Fu in quella circostanza che Achille approdò a Sciro e sposò formalmente Deidamia. Alcuni credono che Troia cadde 20 anni dopo il ratto di Elena e che i greci fecero questa falsa partenza durante il secondo anno, e che 8 anni trascorsero prima che si imbarcassero di nuovo. Ma è più probabile che il grande consiglio di guerra all'Ellenio di Sparta si tenesse lo stesso anno in cui i greci ritornarono dalla Misia. Si dice che si fossero ancora assai preoccupati per la mancanza di un pilota competente che li guidasse a Troia. Frattanto la ferita di Telefo non si rimarginava e Apollo disse che poteva guarire soltanto grazie al ferro che l'aveva provocata. Telefo dunque si recò da Agamennone a Micene, avvolto nei cenci del supplice, e seguendo il consiglio di Clitennestra strappò il piccolo Oreste dalla culla. «Ucciderò tuo figlio», disse, «se tu non mi curerai». Ma Agamennone, avvertito da un oracolo che i greci non avrebbero potuto conquistare Troia senza l'appoggio di Telefo, non ebbe bisogno di minacce per aiutarlo e disse che l'avrebbe volentieri curato se egli avesse guidato la flotta fino a Troia. Poiché Telefo acconsentì, Achille, dietro richiesta di Agamennone, cosparse la ferita con un po' di ruggine presa dalla sua lancia e così la risanò, usando anche l'erba achillea, un vulnerario da lui stesso scoperto. Telefo in seguito rifiutò di unirsi alla spedizione col pretesto che sua moglie Laodice, chiamata anche Iera o Astioca, era figlia di Priamo. Mostrò tuttavia ai greci quale rotta dovevano seguire e Calcante, con la sua arte divinatoria, confermò l'esattezza del consiglio di Telefo. Dopo la caduta di Cnosso verso il 1400 a.C., tra i popoli del Mediterraneo orientale sorsero delle rivalità per la supremazia sul mare. Questa situazione si riflette in quanto racconta Erodoto, appoggiato da Giovanni Malala, a proposito delle scorrerie che precedettero il ratto di Elena, e in quanto ci narra Apollodoro a proposito delle spedizioni di Paride contro Sidone dei guerrieri di Agamennone in Misia. La confederazione troiana fu il principale ostacolo che si opponesse alle ambizioni mercantili dei greci, e infine il gran re di Micene riunì i suoi alleati, compresi i capi greci di Creta, per organizzare un attacco contro Troia. È molto probabile che una guerra navale precedente l'assedio di Troia durasse 9 o 10 anni. Tra gli alleati indipendenti di Agamennone vi erano gli isolani di Itaca, Samo, Dulichio e Zacinto, guidati da Odisseo, i Tessali meridionali guidati da Achille e i loro cugini di Locrie e di Salamina, guidati dai due Aiaci. Mantenere il buon accordo tra questi capi non era cosa facile, e Agamennone riuscì a impedire che si scannassero a vicenda, ricorrendo ad astuzie diplomatiche con l'aiuto leale dei suoi alleati peloponnesiaci, Menelao di Sparta, Diomede di Argo e Nestore di Piro. Il fatto che Aiace bestemmiasse gli dei dell'Olimpo e insultasse Atena nata da Zeus fu erroneamente interpretato come una prova di ateismo, mentre invece dimostra quanto egli fosse conservatore in materia religiosa. Gli Acidi appartenevano al ceppo Lelego e onoravano la grande dea pre-ellenica. Pare che i Tebani e gli Ateniesi si mantenessero neutrali. Benché si parli di forze ateniesi nel catalogo delle navi, è certo che esse non ebbero parte importante nell'assedio di Troia. Ma la presenza di re Menesteo è stata messa in risalto per giustificare in seguito l'espansione ateniese lungo le coste del Mar Nero. Odisseo è un personaggio chiave della mitologia greca. Sebbene fosse nato da una figlia del corinzio dio del sole e avesse conquistato Penelope, all'uso antico, vincendo una corsa podistica, egli infrange la secolare legge matriarcale, insistendo perché Penelope venga a vivere nel suo regno anziché trasferirsi in quello di lei. Inoltre, come suo padre Sisifo e come il cretese Cinira, rifiuta di morire allo scadere del regno e l'episodio costituisce l'allegoria centrale dell'Odissea. Odisseo, poi, è il primo personaggio mitico cui si attribuisca una leggera imperfezione fisica, gambe troppo corte in proporzione al corpo, cosicché il suo aspetto è più nobile quando siede che quando sta in piedi. La cicatrice alla coscia, tuttavia, lascia supporre che egli sfuggì alla morte che incombeva sui re appartenenti al culto del cinghiale. La simulata pazzia di Odisseo, sebbene si accordi con la sua riluttanza a comportarsi come si conveniva a un re, pare sia stata male interpretata. Probabilmente Odisseo si limitò a dimostrare in modo profetico l'inutilità della guerra a cui lo si chiamava. Calzando un cappello a cono che contraddistingueva i mistagoghi o veggenti, egli arò un campo. Il bue e l'asino rappresentavano Zeus e Crono, ossia l'estate e l'inverno, e ogni solco in cui seminava sale significava un anno perduto. Palamede, anch'egli dotato di virtù profetiche, afferrò allora Telemaco e fermò l'aratro di Odisseo, indubbiamente al decimo solco, per dimostrare che la battaglia decisiva, poiché tale è il significato di Telemaco, si sarebbe verificata a quell'epoca. Achille, un personaggio più conservatore, si nasconde tra le donne, come si conviene a un eroe solare, e prende le armi nel quarto mese, cioè quando il sole è uscito dall'equinozio e dunque dalla tutela di sua madre, la notte. I bambini cretesi erano chiamati scozioi, figli delle tenebre, finché rimanevano chiusi nel quartiere delle donne, non avendo ancora ricevuto dalla sacerdotessa madre il permesso di usare le armi e di godere della libertà. Nel Mabinogion, Gvidion, il re Odino o Wotan, si serve in circostanze analoghe dell'astuzia cui ricorse Odisseo per smascherare Achille, per sotterrare Liufgifes, un altro eroe solare, alla tutela di sua madre Ariane Rod, e gli simula il fragore di una battaglia all'esterno del castello e spaventa la regina tanto da indurla a consegnare lancia e scudo a Iulov. La versione celtica del mito è probabilmente la più antica e gli argivi le diedero forma drammatica inscenando, il primo giorno del quarto mese, una battaglia tra ragazzi vestiti da donna e ragazze vestite da uomini. Tale festa era chiamata ibristica, vergognoso comportamento. La sua giustificazione storica fu che agli inizi del V secolo la poetessa Telesilla, con un gruppo di donne, fu costretta a difendere Argo contro re Cleomene di Sparta dopo la completa sconfitta dell'esercito argivo. Poiché Patroclo porta un nome patriarcale inappropriato, gloria del padre, è probabile che un tempo si chiamasse Fenice, rosso sangue, e fosse il gemello e successore di Achille sotto il regime matriarcale. Tutti i capi greci alla guerra di Troia erano re sacri. Non è possibile che il serpente del piccolo Aiace lo accompagnasse in battaglia, poiché probabilmente egli non ebbe serpenti domestici finché non divenne un eroe oracolare. L'elmo di Idomeneo, adorno di zanne di cinghiale, caratteristica confermata dagli scavi in Creta e nella Grecia micenea, era forse portato in origine dal successore. Il suo gallo, sacro al sole e che rappresentava Zeus Vulcanos, deve essere una tarda aggiunta di Omero, perché la gallina domestica fu introdotta in Grecia soltanto nel VI secolo avanti Cristo. Sullo scudo di Idomeneo era forse dipinta una pernice maschio. Gli scudi corazzati erano fatti con pelli di toro cucite assieme, arrotondate alle estremità e appuntite al centro, a forma di otto, per uso rituale. Essi coprivano l'intero corpo dal mento alla caviglia. Achille, senza labbra, pare fosse un appellativo comune agli eroi oracolari, poiché il culto di Achille era diffuso a Sciro, Aftia e in Elide. Reo, figlia di Stafilo e di Crisotemi, Melagrana, figlia di Grappolo d'Uva e dell'Ordine d'Oro, che giunse a Delo in un cofano, rappresenta la solita dea della fertilità nella sua barca a forma di quarto di luna. Essa appare anche in triade con le sue nipoti, le vignaiole, i cui nomi significano olio d'oliva, grano e vino. La madre loro era Dorippa, ossia cavalla donata, il che lascia supporre che Reo fosse Demetra dalla testa di giumenta. Vestigia del suo culto sopravvivono ancora oggi nel Kernos a tre coppe, un recipiente usato dai preti ortodossi greci per l'offerta d'olio, di grano e di vino che si porta in chiesa per il sacrificio. Un Kernos dello stesso tipo è stato trovato in un'antica tomba minoica a Cumasa, e le vignaiole, essendo nipoti di Arianna, dovevano essere giunte a Delo da Creta. Le difficoltà incontrate dai greci per raggiungere Troia sono contraddette dalla rapidità con cui Menelao compì la traversata. Forse nella leggenda originale l'Afrodite troiana annebbiò la loro memoria con un incantesimo così come in seguito disperse le loro flotte durante il viaggio di ritorno. La terapia usata da Achille per una ferita di lancia, terapia che si basava sull'antico precetto omeopatico che è simile cura è simile, ci ricorda l'episodio di Melampo che si servì della ruggine di un coltello per guarire Ificlo. Le menadi nelle pitture vascolari hanno a volte un tatuaggio a forma di ordito e trama sulle membra. Se un tempo anche il loro volto fu tatuato a quel modo per celebrare le orge boscherecce, ciò servirebbe a spiegare il nome di Penelope con una rete sul viso come appellativo dell'orgiastica dea dei monti. Forse essa indossava anche una rete nel corso delle orge come Dittinna e la britannica dea Goda. La leggenda che Pan fosse nato da Penelope, dopo che essa si accoppiò promiscuamente con tutti i suoi pretendenti durante l'assenza di Odissio, si ricollega alla tradizione delle orge sessuali preelleniche. L'anatra Penelope, come il cigno, era probabilmente un uccello totem di Sparta. Nessun commentatore si è preso finora la briga di spiegare con chiarezza perché il nido d'uccelli di Calcante si trovasse su un ramo di platano e gli animaletti fossero divorati da un serpente. Ma la spiegazione è questa. I serpenti cambiano pelle rinnovandosi ogni anno e in modo analogo i platani cambiano la corteccia, il che fa di tutti e due i simboli della rigenerazione. Calcante dunque sapeva che ognuno degli uccelli divorati corrispondeva a un anno e non a un mese. Benché in seguito dedicato ad Apollo, il platano era l'albero sacro alla dea in Creta e a Sparta, perché le sue foglie parevano verdi mani con le dita allargate in segno di benedizione, un gesto che si ritrova facilmente nelle arcaiche statuette della dea. Le macchie azzurre sulla pelle del serpente provano che egli era mandato da Zeus, il dio avvolto da nembi azzurri. Le navi giocattolo di Cinira forse ricordano un'usanza cipriota importata dall'Egitto, quella di seppellire navi di terracotta presso i principi morti per facilitare il loro viaggio nell'oltretomba. Le 50 figlie di Cinira, trasformate in alcioni, erano probabilmente un collegio di sacerdotesse di Afrodite. Uno degli appellativi della dea era infatti Alcione, la regina che tiene lontane le tempeste, e gli alcioni, che le erano sacri, preannunciavano la bonaccia.